Siempre vivo por ti. No hay prezioso, prezioso torneo della gloria, prezioso torneo della gloria, oh prezioso torneo della gloria, prezioso torneo della gloria, alleluia, oh sì.